se un giorno ci fossero le basi per tornare all'Inter, io tornerei anche all'Inter, perché no? Non è un problema. Mario scrive il suo futuro. Il futuro di Mario ce l'ha nelle gambe. Lui decide, è l'unico giocatore che potrebbe vincere il pallone d'oro 2, 3, 4 volte. Messi veramente deve stare attento. Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. I tifosi dovrebbero stare tranquilli. E poi deve essere una squadra che punta in alto. Tutti convocati di Carlo Genta. Balotelli al Milan, arriva l'ufficialità, 4 anni e mezzo di contratto da 4 milioni netti, 20 milioni più bonus al City, ed ora i tifosi sognano la rimonta. Breaking news. Mario Balotelli è un giocatore del Milan, il club rossonero ha infatti raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento dell'attaccante a Milano. Il giocatore domani sosterrà le visite e firmerà il contratto fino al 2017. Buonasera amici sportivi, il calciomercato vive le sue ultime giornate, sono ore frenetiche, un paio d'ore fa è arrivato l'annuncio ufficiale. Mario Balotelli è un giocatore del Milan. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanide, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Io oggi non parlo. Parlo. Non perché non voglia parlare, non perché non abbia cose da dire. Qualcuno adesso tra un secondo maliziosamente o malignamente scriverà era ora, ma non parlo perché voglio che oggi a parlare siate voi. Pronto? 800 24 00 24. Parlo, sto zitto. Mario Balotelli, la Madonna Pellegrina sta arrivando, non si sa bene a che ora, prima dicevano alle 14, poi alle 15, poi alle 16, non è ancora arrivato, ma io non parlo. Beh, ci sarà qualcuno di voi che vuole parlare, 800 24 00 24, o no? Milanisti contenti, interisti scontenti, mentre Moratti dice che non è un rammarico perché all'Inter Balotelli non serviva. Tifosi della nazionale che magari guardano con interesse quantomeno al ritorno in Italia di uno che se vuole e quando vuole può diventare un fuoriclasse. Non mi basta ancora? Hai disappointed because everything that Mario do is a big situation. What about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. Yeah, I'm different. I'm Mario, so... Even if I was Mario, I'm happy. I'm Mario, so... I know it's mine, but I'm happy. 4 t-shirts saying, why always me? I try to work hard. I asked him, I said, why always you? See you was 2012, see me a year ago. I found my head. 0% che Mario Balotelli possa venire in Italia a gennaio. 0,0,0,0,0,1. Che nel calcio si sa mai. Voi sapete che Balotelli è un giocatore che io amo pazzamente, ma ci sono tanti amori che non vanno a buon fine nella vita. Balotelli è uno di quelli. Quale può essere il prezzo di Balotelli oggi? Come la Gioconda? No, delle scuole di frutta se ne intende poco, pochissimi. Mario è una ciliegina, non è una frutta nella marcia, anzi, tutto il contrario, un frutto esotico. No, ma Balotelli è un fatto sentimentale, quindi Balotelli è sempre... Ma rientra in questo l'opzione di un prestito per Balotelli, quello non ho capito. Balotelli è un giocatore del City, basta con Balotelli. Inutile, tanto non parlo. Io ho deciso di stare zitto perché voglio sentire la vostra voce. Siete tutti convocati mai come oggi. 800 24 00 24 è il numero verde. Ma se questo ancora non vi basta, nel mio silenzio, beh, può anche esserci dell'altro, no? Che è successo ieri sera all'Olimpico. Io ho visto un pochettino gli episodi e devo dire che l'arbitro non, cioè, la direzione è stata impeccabile, perché Vucinic si è tuffato sulla prima situazione. Giovinco è svenuto in aria per un calo di zuccheri. Secondo me le situazioni sono state affrontate nella giusta maniera. Sai, questa è una grande crisi, quindi, stiamo in piena crisi, in grande crisi, quindi bisogna fare grandissima attenzione e fare attente valutazioni, perché mettiamo a repentaglio comunque la qualificazione in Champions, e questo dobbiamo fare grande attenzione. Sarà molto difficile rivincere lo scudetto in Italia, soprattutto se continuiamo a non fare i risultati. Ripeto, quando parlo di crisi, siamo in crisi su tutto, anche a livello difensivo, quindi solo di attaccanti, ma anche a centrocampo e a livello difensivo. Quindi si è inceppato il meccanismo e bisogna essere bravi a ritrovarlo, sto meccanismo. Guardate, io sto rispondendo seriamente, quindi non è che non sto rispondendo seriamente. Voi mi state chiedendo, allora volete sempre che io faccia polemica? Adesso vedete, un Antonio Conte, bon ton, lord, sotto tutto punti di vista, quindi... Se non volete parlare di Balotelli e neanche di Conte, io continuo a stare zitto. 800240024. I'm a joker, I'm a smoker, non è uno smoker, a differenza di Sabatini e di Zeman. Midnight Talker, verso mezzanotte, ha fatto dell'ironia. C'è chi scrive, 800240024. C'è chi scrive: nessuno ha detto la frase completa, Balotelli è un giocatore del Milan, Galliani è un marziano, Mauro da Monza. C'è chi scrive: giocatore ridicolo, presidente ridicolo. C'è chi scrive Mario ora voto Berlusconi. C'è chi scrive altre cose. Beh, Galliani, solito califfo, eh. Se serviva un colpo assoluto da calare sulla piazza pubblica, sull'agorà nazionale popolare o politico sportiva, meglio di così non si poteva fare. Che dite? Allora, Marco Guerino su Twitter: dalla tua euforia si capisce che sei milanista, ti sei fregato da solo. E perché? Io sono tra quelli contenti di rivedere un giocatore che mi diverte in Italia, anche a beneficio della nazionale, come ha detto subito Prandelli. Sempre su Twitter, Andrea Delia: che ce ne frega, noi di Mario abbiamo Rocky Gol, Rocky Gol, Rocky Gol. Che tristezza. Va bene, allora vi aspetto, dopo il traffico. 800240024 è il numero verde, il primo convocato sarà Sergio da Brescia. A dopo. La stampa in inglese non posso chiederlo, però la stampa italiana sì, perché la stampa inglese sono troppo stupidi e non capiscono. Vorrei essere un po' lasciato in pace. Tutti convocati. Rieccoci, la vostra voce. 800240024 sull'agorà, anche in questo caso dell'etere, non tanto nazionale popolare, certamente non politico, sicuramente sportiva. Sergio da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io voglio portare la mia testimonianza come interista. Sì. E voglio dire che in questo momento sto rosicando, perché sì, non per l'acquisto di Balotelli in sé, perché io sono contento, sono tra i contenti che se ne sia andato dall'Inter, ma perché il Milan ha messo sul tavolo, nella persona del suo presidente, un sacco di euro, un sacco di milioni di euro. Quindi io come interista, un sacco di milioni. Da fastidio come interista. Vi ha molto fastidio. Noi ci siamo presi lì, mi sembra, beh, Rocchi lasciamo stare, Kuzmanovic, Schelotto. Kuzmanovic e Schelotto. Io lo ricordo Kuzmanovic nella Fiorentina. Sì. Brandelli lo faceva giocare, mi sembra, mezzala destra. Sì, più o meno. Bravo, più o meno. Molto bravo, molto tecnico. Però poi non so che fine abbia fatto. Però, giocava, giocava nello Stoccarda. Comunque la risposta dell'Inter è anche una promessa a lungo termine per Paulinho. Lei dice: ha messo sul tavolo un sacco di milioni di euro, in realtà per ora 4. Cioè, si è pigliato Balotelli per 4 milioni, poi arriveranno altre rate nei prossimi 4 anni. Vabbè. Sergio, allora io la saluto perché devo ho un ospite in linea, che giornalista, scrittore, uno che conosce profondamente Mario Balotelli, dalla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando. Ciao Luigi, grazie. Ciao a tutti. Un sacco di milioni di euro, mentre la Madonna Pellegrina sta arrivando, sta calando su Milano, adesso l'ha preso per 4 milioni, poi i prossimi 5 anni, altri 4 all'anno, ma nei prossimi 5 anni di cose ne possono succedere un sacco, dall'avverarsi la profezia dei Maya al cambio di altri 4 governi. Certo, insomma, la sensazione che Galliani abbia fatto un buon colpo c'è, al di là poi delle dichiarazioni diplomatiche di Moratti, non ci interessa, non ci sarebbe stato utile, però evidentemente in un mercato così in controtendenza, aver comprato comunque il ragazzo, al di là di tutte le riserve che può avere, insomma, in questa stagione non ha ancora fatto nulla, però è sempre un progetto di fuori classe di 23 anni, è sempre entrato, nonostante questa stagione balorda, nei candidati al pallone d'oro, è sempre uno dei migliori under 23 del mondo. Insomma, la sensazione è che il Milan abbia fatto una bella cosa. Sì, abbia fatto anche un colpo, non so quante fossero operazioni di depistaggio, quelle su Kakà, penso di sì, quella su Drogba, mi sembra anche il colpo più funzionale alla ricostruzione del Milan. E poi, secondo me, anche i tifosi della Nazionale, già Prandelli l'ha detto, devono guardare con interesse, perché questo Balotelli e il Sharawi potrebbe essere l'attacco della Nazionale. Oggi non vedo in giro qualcosa di meglio. No, assolutamente, quindi avranno modo di giocare insieme. Tra l'altro, la prima uscita che è andata in Nazionale si notava proprio quelle intese naturali che sbocciano sul campo e non sono mai scontate, tante volte anche due individualità forti poi non riescono a legarsi, invece tra di loro si è visto subito un'intesa, quindi anche questo per il Milan promette bene e per noi tifosi della Nazionale è una bellissima notizia. Il Milan comunque, insomma, per 10 anni ha posto l'attacco, poi con De Figlio e comunque uno come Montolivo che è ancora giovane, insomma ha un'ossatura in costruzione che, per dire, l'Inter invece non intravede neppure. Sì, Luigi, secondo me si parla molto dei problemi caratteriali di Mario, eccetera, sì, eccetera. Secondo me la chiave è la sua responsabilizzazione, non tanto, come dicono i romantici, mettere la maglietta che aveva quando andava al campetto da bambino, quanto il fatto di non essere, di diventare un titolare indiscutibile, di non essere più in discussione, di non essere più costretto a questo continuo rimbalzare tra campo, panchina, tribuna, litigi, eccetera, eccetera. Io credo che questo l'abbia mandato fuori di testa più di quanto non sia di suo. Sì, sì, cioè ci sono gli ingredienti, io credo, per sperare, anche se poi insomma, in questi anni Mario ha smentito sempre un po' tutti, però quello che ha trovato nella Nazionale è quello che può ritrovare al Milan. La Nazionale ha trovato una maglia che ama, ha trovato un allenatore che gli ha dato fiducia, ha trovato un popolo di tifosi, comunque un mondo che crede in lui, si è stretto in lui. Ecco, al Milan può ritrovare forse per la prima volta in un club le stesse cose. Poi però dipende veramente molto da lui. Sono d'accordo con Prandelli quando dice... L'ultima chance. Ma poi aspetta il momento in cui lui si sveglia e dice: ok, adesso ho deciso, divento più forte del mondo, adesso scommetto su di me. Ecco, fino adesso non l'ho ancora fatto, ha detto: ok, gioco a pallone, però faccio tante altre cose, mi diverto. Quando deciderà di dire: questo è il mio mestiere, ora mi faccio la sfida, vado a beccare Messi, vado a beccare Ibra e comincio solo a pensare a giocare, ecco, in quel momento nascerà Balotelli. Un'ultima cosa, Luigi, sulla Juventus, sull'ironia di Conte, sul ricorso per Bonucci e Marotta. Per fortuna Conte si ha buon gusto e si rinuncia. Una Juventus di nuovo arrabbiata, Conte ironico ieri sera dopo la partita. Mi spiace perché io ho grandissima stima di Conte come allenatore, ma poi anche così come personaggio di sport, e come era fuori luogo l'arrabbiatura a caldo dopo il Genova, non mi piace neanche questa ironia fredda, studiata, insomma. Non credo, insomma, che si fa veramente fatica a vedere la Juve come una vittima, e quindi con quel potenziale che ha economico, di giocatori, di prestigio, di tradizione, e quindi credo che debbano orientarsi un po' nei loro confini, anche di stile, che l'ha sempre contraddistinta. E sono sicuro che Conte lo farà, perché è una persona intelligente, così come sono convinto che la Juve resta la squadra più forte d'Italia e ancora la favorita per il campionato. D'accordo con te su tutti i fronti e ti ringrazio. Ciao, un saluto a tutti. Grazie a Luigi Garlando. Dunque, ma la Juventus, c'è da dire che insomma, al di là dell'ironia di Conte, gira male in questo periodo, le stelle le hanno un po' voltato la schiena, perché insomma, ieri sera mettiamo rigore su Vucinic, chiaro, mettiamoci anche quello su Klose, magari meno chiaro, ma era rigore ed è uno per parte. Mettiamoci soprattutto il fatto di rimettere in piedi la qualificazione al 92esimo, di beccare il gol al 93esimo e di fallire un'occasione pazzesca al 94esimo, quindi alla Juventus al di là di tutto gira malissimo il tiro di Giovinco, la ribattuta assai maldestra di Marchisio. Dunque i fatti sono questi, e poi Conte fa della rabbiosa ironia. Daniele Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei, convocato. Convocatissimo, 800240024, anche perché sennò io oggi non parlo. Io volevo avere una sua opinione in merito alla conferenza di Conte, dato per scontato che l'ironia potrebbe essere più o meno piacevole. Non capisco la ricerca da parte dei giornalisti durante la conferenza di un rispetto o meno, cosa che non veniva cercata nelle conferenze di Mourinho o quant'altro. Si è tanto discusso sulla differenza di atteggiamenti di Conte e di altri, non vedo grossa differenza tra il passato e oggi, vedo soltanto dei giornalisti che da qualcuno pretendono un atteggiamento, da altri non l'hanno mai preso. Beh, questo, puoi discutere sull'ironia, non discutiamo sull'ironia, è chiaramente un atteggiamento studiato, è una risposta voluta, è una risposta preparata e preconfezionata. Si chiede, insomma, il rispetto si domanda sempre a prescindere a tutti, quindi non fare questo distinguo tra Conte e Mourinho. Certamente ieri sera le parole di Conte erano molto importanti dopo quello che è successo sabato sera e dopo questa eliminazione, e lui ha scelto questa via. Giuseppe da provincia di Brindisi, buongiorno. Buongiorno, due minuti, sono convocato innanzitutto, no? È convocatissimo. Due minuti me li lascia. Due alla radio sono un'infinità di tempo. Sono infinità, dica. Vabbè, niente, volevo dire semplicemente una cosa su Balotelli, sì. Rapidissimo. Secondo me è un giocatore importante, però alla fine mi sembra più una tornata elettorale del signor Berlusconi, punto. Poi... per quanto riguarda la Juventus, Può essere due cose. Allora, per quanto riguarda la Juventus, non può una squadra come la Juve prendere a pallonate l'avversario e segnare appena appena un gol. Questo, secondo me, sono un tifoso juventino, premesso. Questo è il difetto principale della Juventus in questo momento. Poi chiudo e lascio a lei la mia considerazione. Grazie. Ha chiuso, benissimo. Grazie a Giuseppe dalla provincia di Brindisi. Sì, il difetto principale della Juventus lo vedono anche, lo vede chiunque, insomma, è il fatto di non riuscire a far gol. Tira in porta 40-50 volte a partita e non segna mai. Alessandro, Vicenza. Eccomi, convocato. Convocato. Ecco, al di là della rabbia di Conte. Uno su Balotelli. Balotelli bisogna scinderlo. Scinderlo. C'è un caso patologico, club nazionale, a poco tempo si concentra di più, gioca meglio, nel club si deconcentra e fa le balotellate così come faceva Cassano. Adesso lo vediamo, perché adesso lo vediamo, perché adesso proprio adesso voglio nel Manchester City, non è che abbia fatto... No, al Manchester City non ha fatto il fenomeno, ma anche perché aveva un sacco di concorrenza, no, lì nel giardino dei nababbi. E io credo che io credo che la chiave non sia una questione di tempo, in nazionale ha poco tempo quindi si concentra da un'altra parte, no, sono d'accordo con quanto diceva prima Luigi Garlando, e cioè ha bisogno di essere responsabilizzato, ha bisogno di sentirsi importante, di sentirsi titolare, perché come tutti i grandi giocatori, Balotelli secondo me è un grande giocatore, quando lo vorrà potrà diventare un fuoriclasse. Balotelli è un presuntuoso, è una qualità, un difetto che secondo me è imprescindibile in ogni fuoriclasse o potenziale fuoriclasse, perché non ce ne sia uno che non lo sia, e quindi questo, ripeto, questo impiego part-time, molto part-time nel Manchester City non gli è servito a nulla, non gli ha fatto bene e lo ha mandato fuori di testa oltre i limiti. Maurizio, da Napoli, e poi ci fermiamo. Buongiorno, allora, buongiorno. La ringrazio per essere stato convocato. Siete sempre, allora, brevemente, tutti convocati. Su Balotelli io sì. Dico, viva la coerenza delle società e dei presidenti di calcio, perché sì. Voglio dire, si è vista molta coerenza, tra virgolette. Poi volevo dire un'altra cosa, sui progetti per quanto riguarda gli allenatori. Io penso che comunque le società, i dirigenti soprattutto, ci devono essere un po' di accordi, perché sicuramente per quanto riguarda Zeman è stata una scelta di cuore più che altro di tifosi, quindi sicuramente Zeman andrà via, sarà finita la stagione e andrà via. Però io penso su Stramaccioni, penso che Moratti comunque dovrebbe, secondo me, io è un allenatore che a me piace. Sì. Da interista, però voglio dire, a me piace, solo che però ha dimostrato qualche volta un po' di presunzione, tipo quando l'Inter ha perso 3-0 con l'Udinese ha dato colpa all'arbitro, quindi bisognerebbe che lui si assumesse un po' di più le responsabilità. Ma questo lo fanno tutti, possono perdere 8-0, poi tanto è colpa dell'arbitro, questo è il più classico dei parafulmine, quindi poi su Stramaccioni vediamo come arriva a fine stagione, non sta certo facendo male con una squadra che ha parecchi limiti. 800240024, adesso vi faccio ascoltare la borsa, ma poi torno. Galliani ha detto che sicuramente in futuro sarai un giocatore del Milan. Sono contento. Ti amo Mario. Tutti convocati. Ricordate anche questa storia della motorona con cui sarà presentato a un allenamento del City, Harley Davidson di Balotelli e Mancino, che invece sei matto, qui in moto i giocatori non possono girare, magari la porta a Milano, che dite? 800240024, ma perché non dice che Conte ha preso per il culo i giornalisti, scrive Franco da Modena. Secondo me ha preso per il culo un po' tutti, perché i giornalisti erano lì per riportare ciò che diceva, e Conte con questo atteggiamento studiato ha voluto prendere in giro o comunque fare dell'ironia su tutto quanto sta succedendo intorno alla Juventus in questo momento, non solo i giornalisti. Secondo lei quanto gli girano Moratti per Balo al Milan? Domanda Caro da Padova, secondo me tantissimo, al di là delle sue parole. Luigi, provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, convocato finalmente dopo convocatissimo, eccoci. Niente, io volevo parlare un attimo del momento della Juventus, perché sì, tutti parlano del fatto che la Juventus davanti tira tanto e segna poco. Il che è vero. No, sono 2 anni che la Juventus davanti tira tanto e segna poco. Sì, però prima ci mettevano una pezza agli inserimenti dei vari Pepe, Marchisio, si ricorda Vidal, si ricorda mi cosa ricordo, hanno fatto. Però ecco, il mio discorso è un altro. Se noi guardiamo le ultime partite dalla Sampdoria in avanti, guardiamo i tabellini, ogni tiro in porta degli avversari è un gol. Quindi il problema per me in questo momento è in difesa, perché anche ieri sera la Lazio ha fatto 2 tiri in porta, che sono 2 colpi di testa, e ha fatto 2 gol. All'andata la Lazio ha fatto 1 tiro in porta e ha portato a casa il pareggio. Sì, no, ma gira comunque, Luigi, lei ha anche ragione. In questo momento la Juventus gira male un po' da tutte le parti. Poi gira male tutto, perché alla fine Giovinco la butta dentro, certo, facciamo certo, noi. Certo, certamente, anche per quello che non è un errore arbitrale, ovviamente, ma esatto, è un errore di un sì, giocatore. Mettiamoci va Giovinco e quello, va tutto nel cumulo di queste stelle che hanno un po' voltato le spalle, però è un dato di fatto che la Juventus faccia una fatica pazzesca comunque a trovare il gol. È per questo che dico che un giocatore strano come Anelka, comunque un giocatore talentuoso, un giocatore che ha esperienza, un divago finché volete, possa effettivamente dare una mano alla Juventus, anche perché Quagliarella e Matri sono finiti ai margini delle rotazioni e Quagliarella era uno che comunque secondo me poteva servire anche per le caratteristiche che ha, però tant'è. Dunque la Juventus ha essenzialmente quel problema. Poi anche in difesa, adesso squalificato Bonucci per due partite, vediamo se verrà accolto il ricorso. Magari anche un centrocampo che non riesce più a proteggere come faceva prima la difesa, complice una condizione fisica che è ancora lontana dall'essere quella migliore. Insomma, sono tutte componenti da tenere in considerazione, secondo me. Gabriele, provincia di Milano, 800 24 00 24. Guardate che se non chiamate sto zitto e ricomincio a stare zitto. Gabriele. Buongiorno. Buongiorno. Convocato al primo colpo. Al primo colpo. Grande. Che botta. Io chiamavo perché mi si è realizzato un sogno a metà. Sì. Vedere Balotelli con la maglia del Milan. E l'altra metà? L'altra metà sarebbe vederlo rientrare in difesa e sputare sangue come il Shaarawy. E l'altra metà, sull'altra metà vediamo. Sull'altra metà vedremo. Il io primo, sono... guardi, le posso dire notizia di cronaca: la Madonna Pellegrina Mario Balotelli è finalmente in arrivo ufficialmente, perché è partito da Londra, è su quel benedetto aereo e sarà a Malpensa intorno alle 16, dopo che è da stamattina che c'è tutto il mondo giornalistico che lo aspetta lì. Perfetto, gaudeamo sigitur, allora. Sia chiaro che il Milan non vincerà lo scudetto quest'anno. Cosa? Sia chiaro che il Milan non vincerà lo scudetto quest'anno. Ma non fa niente, non fa niente. L'importante è vedere Balotelli con la maglia di quel pusillanime di Pato, innanzitutto. E la seconda cosa è vedere che c'è un progetto di ringiovanimento vero. Questo ci sì. Ci sarebbe piaciuto sì, anche a noi vedere qualche rinforzo in più, magari in difesa, senza dubbio. E anche a centrocampo. Diciamo che però, iniziando con un tridente ipotetico, il Shaarawy, Balotelli, Niang, a me fa veramente tanto piacere. Sì, mettiamoci anche Pazzini, che comunque è uno che ha già fatto 10 gol, utilizzato un po' sì e un po' no, è comunque uno che sa come si fa. Pazzini, che magari non sarà felicissimo, sarà forse uno dei miei analisti un po' preoccupati in questo momento, però c'è anche Pazzini, cioè sono quattro attaccanti secondo me molto diversi, sono quattro attaccanti, tolgo neanche che stiamo ancora scoprendo sia come giocatore sia come potenziale svitato, però sicuramente sono giocatori che costituiscono un attacco che in Italia non ha nessuno, in Europa vediamo. Allora, capitolo interisti che rosicano, è troppo tempo che non vedo e non sento il mio amico Mario Boni. Ciao Mari. Ciao Carlo, buonasera. Come ciao stai? Ma come sto? Rosichi? È un po' così, perché Balotelli lo ritengo che sia un grande giocatore, era con noi, adesso va al Milan, al di là che insomma Balotelli abbia giocato con noi, ma il Milan ha preso un grande giocatore con un buon prezzo, sì. quindi ufficialmente rosico. Ufficialmente rosichi, guarda, tutti gli interisti che mi hanno chiamato, ho tanti amici interisti, mi hanno chiamato e mi hanno detto tutti la stessa cosa: scommetto che questo fa gol nel derby e viene a esultare sotto la curva nord, magari bacia anche la maglietta. Beh, ma io mi sembra che Balotelli abbia sempre mostrato la sua fede milanista. Sì. Ritengo anche giusto che se dovesse fare gol nel derby debba esultare. Mm. Ripeto, il Milan si è mosso molto bene, ha preso un grande giocatore molto giovane che non può che far bene. Insomma, anche perché se poi paragono alla campagna acquisti dell'Inter, come si sta muovendo l'Inter... Adesso ci arriviamo, però volevo farti un'altra domanda, Mario, da giocatore della carriera infinita, da capocannoniere della pallacanestro italiana, qual è la maglia che hai sentito più tua? Beh, sai, Montecatini è stata molto mia, perché Io devo dire che in ogni squadra dove ho giocato mi sono sempre identificato, dove ho perlomeno fatto bene, dove mi sono identificato con la società, con la città, con i tifosi. E quindi in ogni posto dove io sono stato conservo buoni ricordi, sì, proprio perché mi sono integrato con loro. Sì, però molti dicono con quella maglia metterà la testa a posto, farà bene perché la maglia qui è più legata. Secondo me è un concetto un po' romantico. Sì, è un concetto romantico, ma poi a me Balotelli piace così. Cioè non è un giocatore ordinario, al di là della sua vita extra calcistica. Dobbiamo riconoscergli però che è bravo a giocare a pallone, è un giocatore giovane, è un giocatore sul quale ogni società credo dovrebbe costruire qualcosa. Sì. Al Milan io sono fiducioso, purtroppo per noi interisti credo che Balotelli al Milan faccia bene. Continuiamo a rosicare, voi rispondete come mi scrivono gli ascoltatori con Rocchi, probabilmente Schelotto, certamente Kuzmanovic e la promessa di Paulinho. E Moratti dice, ma il Milan serve per mille motivi, per me nessun rammarico, a noi non serviva a niente. Ma sai, lì è un po'... le scelte di mercato poi non è che si possono perlomeno pubblicamente rimpiangere. Venendo al mercato dell'Inter, caro Carlo, devo dire che sono inspiegabili certe mosse della maglia dei neroazzurri. L'acquisto di Rocchi, per esempio, e il fatto che non, ancora adesso manca un giorno alla chiusura del mercato, non è ancora nulla di certo su chi si va ad acquistare. Sono mezze figure e non si sa il rendimento. Giocare nella maglia neroazzurra è pesante, quindi non so che rendimento possono avere con la nostra squadra. Ma l'altra cosa che faccio anche una domanda a te e agli ascoltatori è ma sì. Zanetti, io ho letto un'intervista di Stramaccione, Zanetti interno di centrocampo, mi sembra che non sia più proponibile a questi livelli, con tutto il rispetto del nostro capitano. Io ho letto che vuole mettere Schelotto sulla destra perché vede più interno di centrocampo Zanetti. Beh, io mi sto mettendo le mani nei capelli. Sai, Zanetti è come il Prezzemolo, no? Dove lo metti può starci, certamente interno di centrocampo a 39 anni mi sembra eccessivo, così come mi sembra eccessivo l'immobilismo dell'Inter, perché rifletti, domenica in una partita pericolosa come quella con il Torino, che a un certo punto potevi anche perdere, fine migliori Zanetti e Cambiasso. Sì, vabbè, Zanetti ha giocato meglio quando è stato spostato in basso sulla destra, insomma, se lui è di fianco alla fascia e fa solo copertura può avere un senso, almeno questo è il mio punto di vista. Manca energia, manca gioventù, mancano i piedi buoni nel centrocampo dell'Inter. C'è un momento di una pausa di riflessione, Moratti ci ha dato tanto, ci ha fatto godere tanto, pausa di riflessione, mi auguro che non duri troppo questa pausa. Mario, ti saluto con un messaggio che manda un ascoltatore, torna a giocare a basket. sai che tra poco io sono uno che insomma mi sono divertito con la pallacanestro dopo 31-32 anni, mi sa che è giusto anche appendere le scarpette. Ti aspetto presto, grazie. Okay, Mario. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao, un abbraccio, grazie a Mario Boni, Romolo da Milano e poi andiamo a sentire il traffico. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Siamo tutti felici dove lavoro io perché abbiamo stimato che aumenterà il fatturato notevolmente quest'anno perché con l'arrivo di Mario Balotelli ci porterà tanto lavoro. Io lavoro in una notissima concessionaria di macchine di un certo livello. noi abbiamo il sorriso a 47 denti da ieri sera. Lo sa che il suo intervento finirà negli highlights degli ascoltatori del sabato, vero? Spero, ma così almeno vi ascolto più volentieri. Tutti contenti perché ne sfasci una alla settimana? Sì, ma anche in carrozzeria si lavora forte, eh? Quindi abbiamo il posto di lavoro assicurato, sa, con i tempi che corrono. Sento un'altra cosa, se dica, mi consente, no? Sì. Sul Conte, no? La consento, le consento. Io non la consento di dire, vabbè, niente, questo è un fuoripista. Sì. Il signor Conte mi sa che andrà a finire nella categoria degli allenatori che chiederanno l'anno sabbatico perché sta andando fuori di melone, è troppa tensione questo uomo qua, prima o dopo gli scoppiano le meningi perché sì, non sa reggere quel carzone sa reggerlo, però magari un giretto dietro al vetro oscurato che conosce bene per un paio di giornate magari gli fa bene, non lo so. Grazie Romolo, uno dei migliori in campo. 8-0-0-24-0-0-24 e poi vi contiamo, traffico. Ma io non sono matto per niente, Poi posso fare cose un po' strane o cose divertenti, quello sì, ma matto proprio non so. Tutti convocati. Benissimo, da qua fino alla fine parlate solo voi. 800240024, mi raccomando, perché sennò va a finire che sentite la musica. Lucio scrive: con tutti i cervelli che scappano dall'Italia, dovevamo riportare a casa l'unico cretino che stava all'estero? È una domanda di Lucio, un po' molto maliziosa, eh? Oppure, ma siete tutti fuori di testa, saremmo lì ad aspettare Balotelli, ma chi è? Ronaldo? Messi? No, però con... insomma, con i nomi che girano sul mercato, con questa depressione economica, con quest'aria di crisi, veder tornare comunque un giocatore, secondo me, fortissimo, un giocatore della nazionale titolare, un giocatore molto giovane, un giocatore che fa anche rumore, beh, insomma, un po' di eccita, di euforia la porta a tutti, o di rabbia, a seconda dei colori che si portano addosso. Paolo da Cuneo? Paolo da Cuneo. Buongiorno, no, spero di non essere ripetitivo perché mi sono spostato dalla macchina, ho perso un attimo di trasmissione. Ma... No, dire quello che vuole. Senta, no, io sono un tifoso juventino, non sono più il tifoso che era una volta, perché oramai credo che il calcio sia sempre più lontano dalla gente. Per andare a Torino Vinovo bisogna avere la tessera, certificarci, non si può entrare in bunker. Lo so. Comunque, al di là di questo, è diventato veramente, sono lontani tutti dal nostro mondo. Ma è quello, comunque, è quello che succede nel calcio italiano, cioè poi domandano perché pochi vanno allo stadio, perché andare allo stadio è un lavoro, è un lavoro e neanche bello. No, la cosa più bella che potrebbero fare queste società è fare quello che fanno anche in Inghilterra, cioè lasciare aprirsi, aperto, lasciare che aprirsi, le scuole, bravissimo, vengano, bravissimo Paolo, bravissimo, aprirsi un po' più vicini alla gente. Cioè... Sono andato a Vinova, è arrivato uno con la radiolina, lei chi è, carta d'identità, aspetti lì, radiolina, l'accompagna, non si muova, stia nel cerchio, sì, ma no, è una cosa incredibile e indegna, al di là di questo. Ma non tanto al di là, perché è un discorso molto interessante che mi piacerebbe rifare, perché questi qua devono avvicinarsi un po' alla gente. Ma chi sono? È molto più semplice fare due chiacchiere con Mario Monti, che è stato nostro ospite peraltro stamattina, piuttosto che parlare con un ragazzotto di questi qui. Quindi io sono assolutamente della sua idea, se vogliono magari anche diventare un po' più simpatici, massima apertura alla gente. Ma certo, cos'è sta storia? Poi oltretutto hanno in questo momento un'arma importantissima, perché con la crisi che c'è, con la disoccupazione, la gente fortunatamente vive ancora di calcio, fortunatamente avrebbero un'occasione incredibile e dire: signori, siete a casa, non lavorate, vabbè, qualcosa lo trovate, nel frattempo venite a vederci, che venite a stare vicino ai vostri campioni, guardate, cioè sembra una stupidaggine, ma quanto questo darebbe forza, perché la gente comunque il giornale lo compra, vede anche Balotelli. Bravissimo Paolo. Una a casa, bravissimo. Non ha lavoro, ma parla di Balotelli. Hanno una potenza incredibile, no, chiudono e si fanno i bunker. Sì, bravissimo, capisco, bravissimo, non bravissimo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Dica. Comunque, al di qua di questo. Allora, niente, dicevo che Conte ultimamente mi sta diventando poco simpatico, perché l'anno scorso i torti li avevamo comunque, ma arrivava Marotta e diceva: non parliamo dell'arbitro perché eravamo forti, giocavamo bene. Quest'anno purtroppo non si sta più giocando bene. La Juve sono 2-3 partite, anche ieri sera, al di là che era fuori casa, era molto tattica, ma non sta più giocando. Marchisio fuori forma, Vucinic fa quello che faceva la Roma negli ultimi anni, fa lezioso e non gioca più come Pirlo è fuori forma, e purtroppo la Juve non sta giocando più quello che è. Poi certo, un rigore può essere dato, non dato, però sì, anche gli anni scorsi, c'erano e non c'erano, ha ragione, ma infatti la società dovrebbe tornare a comportarsi come l'anno scorso. Sì, assolutamente. Sono d'accordo, questa sindrome di accerchiamento non ha più senso, Vucinic non sta benissimo ed è l'unico in grado di fare la differenza lì davanti. Giovinco sta facendo una stagione, secondo me, fin qui deludente per essere un titolare fisso. La Juve ha il problema del gol, Vucinic è l'unico che salta l'uomo, gli serve qualcuno vicino che insomma concretizzi queste giocate. Servirebbero anche gli inserimenti dei centrocampisti, era segnato Vidal, però non c'è più quella continuità nella ricerca della porta o nel trovare la porta da parte dei centrocampisti della Juventus. La Juventus è una squadra che qualche problema ce l'ha. Io continuo a pensare che sia grosso modo un rischio calcolato, che la preparazione sia stata molto caricata, pensando all'impegno che ormai è dietro l'angolo di Champions League. Quindi continuo a considerare la Juventus la principale candidata per lo scudetto in assoluto, e poi vediamo se la condizione cresce. Mauro, provincia di Milano. Buongiorno Genta. 800-24-0024, convocati tutti voi, sempre, dica. Interista. Rosica? Pronto? Pronto Rosica? No, assolutamente, io batto le mani a Galiani e anzi direi a Branca di andare a lezione in via Turati, come si prende un gran campione sfuggito dalle mani anni fa, sì, a prezzi a 4 leggermente, milioni. Leggermente low cost per un futuro top player, primo. E da interista devo dire anche che la Juve è la più forte, Conte forse sarà un po' nervoso, ma la Juve è più forte. E direi una cosa ai juventini: prendete Pazzini, che io ho sempre amato come giocatore, anche quando era all'Inter. Pazzini penso che faccia molto comodo, perché adesso sarà un di più al Milan. Sì. E terzo, la mia Inter. Purtroppo, come dico ai miei amici, siamo una squadra da settimo, ottavo posto. Non abbiamo un management che riesce a fare mercato senza soldi. Mourinho ha tamponato. Beh, ma ai tempi di Mourinho, cioè, i quattrini c'erano, cioè, era un'altra storia. Mi farebbe senso vedere una notizia ANSA, non so, di qualche giocatore, Schelotto rifiuta l'Inter, ecco. No. Oramai Schelotto rifiuta l'Inter, io non penso proprio, guardi, lei sarà un po' giù, certamente Rosica, anche se non vuole dirlo, ha ragione. No, Rosica, diretta a me, perché quando no. dice, no, ma no, giustamente... Io sono sportivo, io amavo anche Ibrahimovic, quindi... Ci mancherebbe altro, sono quelli campo, che poi uno ma fuori dal campo chi se ne frega, va bene per altri giornali, però quello che dico io ha ragione a dire, dovrebbero andare a lezione da Galiani, ma Galiani è il mago Zurlì, è riuscito di nuovo, o Harry Potter, visto che era in Inghilterra, è riuscito a comprare Mario Balotelli per 4 milioni subito, e se può fare, no? Io credo che possa permetterselo chiunque. Poi ripeto, le altre cosa sono? 4 rate annuali da altri 4 milioni a botta? Insomma, in 4 anni, ripeto, fanno in tempo ad avverarsi con ritardo le profezie dei Maya o a cambiare 8 governi, insomma. Poi vediamo. Intanto Balotelli arriva con 4 milioni e questo mi sembra un colpaccio. Marco, Modena, e poi ciao a tutti. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo dire, fino a un mese fa non capivo il Milan cosa stesse facendo al mercato, come si stesse comportando, non si capiva. Da un mese a questa parte devo fare complimenti, perché oltre ad avere comprato Balotelli, che sembra, speriamo sia un gran colpo, però si è liberata di Pato, un piombo, e si è liberata finalmente di Acerbi e De Maleson, che non so che cosa stessero a fare nel Milan. Quindi sì. Complimenti per come si sta muovendo, perché effettivamente è un doppio colpo quello di avermi dato via Emanuelson. Sì, Emanuelson era anche lui finito ai margini della rotazione, a un certo punto sembrava diventato un giocatore importantissimo nel Milan, poi di fatto non... Se Emanuelson diventa un giocatore importantissimo nel Milan, allora qualche problema esiste, certamente. Quanto al resto, le operazioni di mercato, io non so se quelle su Kakà o su Drogba siano state operazioni di depistaggio. Certamente sarebbero state operazioni, soprattutto quella di Drogba, puramente demagogiche, ma anche quella su Kakà sarebbe stata un'operazione puramente demagogica. Invece su Balotelli è stato per il Milan un grande colpo calcistico e per Berlusconi un grande colpo, punto e basta. Allora vi annuncio che Giovanni Soldini, che sta facendo la traversata da New York San Francisco, sarà in diretta con Matteo Caccia tra poco, e con questo vi saluto, vi aspetto a domani, e numerosi e naturalmente sempre convocati. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadore in regia, ciao a tutti.